Mamma, spiegami tu questo grande mistero. Giochi nuovi non ne ho, carezzerà i nonni neanche un po'. Non vedo bambini neanche vicini. I giochi di scuola mancano tantissimo. Eppure io sono una bimba felicissima. Ogni giorno è un gran progetto che inizia al mattino con un dolce bacetto. E con un sorriso che dona gioia scaccia la tristezza e pure la noia. Quale sarà questa grande magia? Sei tu, mammina mia. Il mondo è pieno di cose belle, il sole, il mare e le stelle, ma il tesoro più grande che c'è è la mia mamma tutta per me. Auguri mamma!